Ancora una, poi smetto. Le serie TV consigliate da Marta Cagnola. Incollati alle serie TV. Dobbiamo fare qualcosa, qualsiasi cosa, uscire, sistemare casa, andare a fare la spesa, al lavoro, a dormire, ma niente. Abbiamo iniziato una serie che ci piace, finisce una puntata e diciamo, dai, ancora una, poi smetto. E se potessimo rimanderemo all'infinito? Ovviamente deve essere la serie giusta. Come non sbagliare? Beh, ci sono io, ci sono i miei amici più esperti in materia. Oggi c'è Mattia Carzaniga, giornalista, che ci accompagna nelle serie True Crime. Da dove vuoi cominciare? Direi di partire dall'inizio. Come è cominciato tutto? Il mondo degli zoo privati è pieno di pazzi. E magari io sono uno di quelli, non lo so. Ma sono tutti svitati, pazzi dalle gare. Quelli che amano le scimmie sono diversi. Sono solo un po' strani, ma quelli fissati con i felini ti pugnalano alle spalle. Sono dei pezzi di merda. Partiamo con una delle serie del momento su Netflix, Tiger King. Ma Tiger King, che va sotto la dicitura, il genere true crime, in realtà è un trattato sociologico di una nazione, gli Stati Uniti, e un po' di questo tempo di grande mitomania, esibizionismo, narcisismo, mania di protagonismo, incarnati tutti questi atteggiamenti e tutte queste, insomma, atteggiamenti, queste disfunzioni psicologiche che tutti abbiamo, da Joe Exotic in arte, che è il gestore di questo cosiddetto zoo privato, zoo domestico in Oklahoma, che è diventato un po' suo malgrado, sia un criminale che un eroe, perché poi il suo crimine vero presunto, che è il tentato omicidio della sua rivale, che è un altro personaggio indimenticabile, Carol Baskin, in realtà è quasi, va quasi in secondo piano nella serie rispetto al suo personaggio davvero larger than life, come si dice, un personaggio che addirittura si è candidato alla presidenza degli Stati Uniti. I'm Joe Exotic, I am now stepping my foot in the ring to run for president. Che ha pensato di poter gestire la sua immagine a livello pubblico e privato in una maniera completamente spericolata e per questo molto affascinante. Per cui sì, è molto criminale il profilo, ma è un profilo in cui in fondo non dico ci possiamo immedesimare, ma è quasi un vedere fin dove si può portare all'estremo il limite della nostra appunto ansia di voler essere presenti, di voler essere importanti, di voler essere considerati, di voler essere amati in qualche modo. Tant'è che lui addirittura avrà a un certo punto 3 mariti, è in cerca di amore incondizionato da parte di tutte le persone che ha attorno, che sono dei mezzi balordi, che in qualche modo lui salva anche dalla strada, o comunque il suo pubblico che si riesce a creare attorno a sé, di persone che fanno la fila per vedere 2 tigri in Oklahoma, che sono già uno spettacolo sensazionale, e lui, ecco, ha una grande voglia di tenerezza, e forse per questo noi siamo dalla sua parte, anche se attualmente è in carcere con l'accusa appunto di tentato omicidio, che è un po' il filo sottile che lega tutta la serie e che fa appunto da ossatura criminale al documentario. Una faida durata decenni è giunta a un bizzarro epilogo. Il re delle tigri è accusato di aver tentato di far uccidere una donna. Non succede tutti i giorni che il gestore di uno zoo vada in prigione per aver assoldato un sicario. Sono sicuro che sentirete una storia interessante. Un successo talmente travolgente che nel momento più tremendo della pandemia negli Stati Uniti è stato realizzato uno speciale per proseguire col successo di questa serie di Netflix. Hey all you cool cats and kittens, it's me, Joel McHale. And as you're all aware, we're currently in the midst of a global pandemic, Tiger King Fever. E forse oltre ad essere stato il fenomeno che è stato mediatico in tutti i sensi, perché oltre alla serie poi si è prodotta una quantità di meme, di gif, di materiale virale ma che è veramente stata una pandemia, ci siamo tutti contagiati con Tiger King, forse ha anche il record, detiene il record di prima serie davvero realizzata almeno per una puntata speciale durante la pandemia, una specie di video call di gruppo con un po' dei protagonisti della serie che raccontano appunto quanto, come dicevi tu, è stato impressionante dal punto di vista di numeri il fenomeno, al punto che in pieno lockdown, a inizio lockdown anche negli Stati Uniti, in barba a tutte le norme di distanze di sicurezza, mascherine, venivano fermati per strada e abbracciati questi signori nessuno fino a pochi giorni prima, perché tutti avevano in qualche modo sentito una connessione quasi sentimentale, emotiva, con il quello che puliva le gabbie delle tigri, la ragazza, anzi oggi ragazzo perché è transgender, che si è perso una mano, poveretto, dando da mangiare a questi big cats, come li chiamano loro, si è prodotta davvero, cioè da corte dei miracoli sono diventati una specie di cast di una serie appunto amatissimo e volti quasi familiari in questo lockdown che ci ha tutti isolati, loro sono diventati quasi appunto dei volti amici. Per tutti coloro che hanno amato Tiger King e che magari hanno scoperto questo genere delle serie true crime, che cosa possiamo consigliare, magari anche andando un pochino indietro nel tempo? Andando un po' indietro, io andrei al 2015, che casualmente è l'anno di uscita, produzione di due titoli che sono un po' dei capisaldi entrambi, anche se diversamente, del genere docu-serie true crime. Uno è sempre su Netflix ed è Making a Murderer, che molti hanno visto, tantissimi hanno visto. The disappearance of Teresa Halbach remains a mystery. Mr. Avery's blood is found inside of Teresa Halbach's vehicle. If convicted, Stephen Avery will spend the rest of his life in prison. We found a key. That key was scrubbed and his DNA was placed on it. This is really strange. What's going on here? Everything I've heard him say hasn't been the truth. It was extraordinarily disturbing. We went through this 20 years ago and we're going through it now again. In this criminal justice system, good luck. You are probably the most dangerous individual ever to set foot in this courtroom. Bellissima, da non dormire di notte. Da non dormire di notte, e fino a quel momento forse non era esistito nulla di tutto ciò che era sia, chi l'ha visto per capirci, cioè sia un'inchiesta televisiva classica che un racconto da serie moderna del tutto contemporaneo, e tant'è che è stato imitato a destra e a sinistra negli anni successivi, oggi è tutto quella roba lì, anche Tiger King, proprio nelle modalità narrative, di linguaggio, è esattamente Making a Murder, perché poi è proprio lo sviluppo, è il making of che interessa del profilo criminale di turno. Come fabbricare un assassino, diciamo? Un assassino, un delinquente, una persona appunto, come diciamo prima, cattiva, ma forse no, perché in questo making ci si guadagna o ci si perde qualcosa anche della cattiveria, si scopre l'umanità, si scoprono le emozioni, quindi tutto questo, diciamo, è entrato proprio nello storytelling cosiddetto del genere. L'altra serie, sempre uscita quell'anno su HBO, però quindi un po' più nicchia, diciamo, un po' più autore, è The Jinx. One thing that was very telling that Bob said, he said, "All my life I've had more money than I could spend and it didn't make me happy." She talked on the telephone with her husband, then she vanished, and no one has seen Kathleen Durst since. Durst was wanted for murder in Texas, was a suspect for murders in Los Angeles, Westchester County, New York. He belongs to one of the richest families in New York City. Might be a little eccentric. I think Bob is very smart. I mean, he's managed to get away with three murders. Altro titolo sensazionale che ha indagato tutti i problemi con la legge, non spoileriamo perché davvero sarebbe un peccato, di un multimilionario dato per perso, in realtà anche lui con un profilo folle, criminale, ma anche lì siamo proprio nel socio-antropologico come territorio, e quindi sì, questi due sono sicuramente due, così come si dice, pietre miliari del genere. Devo dire che in entrambi i casi io consiglierei a chi ci sente di non cercare nulla in rete. Soprattutto per quanto riguarda The Jinx, è importantissimo non cercare niente, perché altrimenti davvero si rischia di rovinare quello che è il vero senso della serie e che si scopre solo guardandola. Cioè, se si leggono notizie in rete si toglie tutta la sorpresa dell'importanza di questa serie. Perché altra cosa che suggerisci bene è che a fronte di casi, per noi sono lontani, quindi non potevamo conoscerli neanche prima, però sono casi di cronaca che molta gente ha letto sulle pagine dei giornali, nelle inchieste in TV. Nonostante questo, il genere true crime ha creato un linguaggio per cui davvero, no spoiler, è un peccato conoscere la verità anche quando la verità la si era intravista, origliata. È davvero diventato un modo di confezionare i casi, che poi sono delle storie e, come abbiamo detto spesso, sono sceneggiature che neanche uno sceneggiatore avrebbe potuto immaginare. Davvero si toglie la sorpresa anche delle cose che già potenzialmente si possono conoscere. Per quanto riguarda Making a Murderer, la cosa straordinaria è stata la lunghezza della lavorazione della prima stagione, perché la prima stagione è stata registrata in 10 anni, perché in realtà queste storie sono talmente complesse che spesso nascono dall'osservazione di una persona per molti anni. Sono addirittura più difficili da realizzare di una complessissima serie TV di finzione. Tant'è che la prima stagione di Making a Murderer, che è anche per queste ragioni più grezza da un punto di vista di materiali, perché era stata pensata come un'inchiesta fatta veramente con le telecamerine da pochi soldi, è forse più ancora appassionante, interessante delle successive, che invece sono diventate a quel punto dei colossi di Netflix, e che, ecco, se va trovata un difetto, ma neanche un difetto, però dell'essere diventati un genere di successo, ovviamente l'altra faccia è avere un po' uniformato un linguaggio e quindi ora tutto un po' si assomiglia. Il grosso della storia, il grosso lo fa la storia, e una storia grossa come Tiger King fa la differenza, o come anche altre che ci possono essere. Altro esempio è Wild Wild Country, sempre su Netflix, che raccontava una figura nota a tutti anche solo per i meme, che è Osho, il santone indiano fuggito negli Stati Uniti per ragioni fiscali, delinquenziali anche lì, ma che scoperchia un mondo, un clash di culture tra quella appunto di Osho e quella della profonda provincia americana dell'Oregon, dove si trova a mettere in piedi la sua comunità, setta, o tutto quel che vedrete o che avete visto. E quindi quando hai appunto delle storie che ti tengono veramente incollato a guardare dove possono andare personaggi anche noti, o comunque di cui si scoprono ogni volta cose, perché poi un crimine tira l'altro, ecco, un po' come le ciliegie, si scopre dalle serie true crime che, come apri un file, ce ne saranno altri 10 altri link possibili infiniti. C'è una serie che a me ha appassionato moltissimo perché, come accade anche ad esempio in Making a Murderer, parla molto del ruolo dei media nelle investigazioni, non solo nel raccontare il crimine, ma anche un po' nell'intervenire nell'indagine, ed è una serie spagnola, sempre su Netflix, che si chiama Le ragazze di Alcácer. Desiree Hernández y Miriam García, ambas de 14 años, y Antonia Gómez, de 15, fueron vistas por última vez en la localidad de Picasset. Los cadáveres de 3 jóvenes han sido hallados hace unas horas en Valencia. Fue una auténtica locura. ¿No piensa que he hecho yo para merecer esto? Se han producido 2 detenciones. Era una persona muy fría, todos le teníamos miedo. El juicio es la clave de todo. El secreto mejor guardado era el sumario Alcácer. Mattia, ¿te es piaciuta? Sì, e concordo con te che è anche quasi più vicina a noi e alla nostra TV, perché insomma siamo veramente fratelli di questo modo di raccontare, di fare inchiesta, molto pop per capirci, anche trash, pigiando sempre il pedale del sensazionalismo, che altrove forse arriva anche me, cioè Tiger King paradossalmente sono quasi più trash i personaggi, anzi senza quasi, sono più trash i personaggi del racconto che se ne fa. Qua al contrario anche le storie apparentemente più normali, perché è una storia di ragazze come tante ne abbiamo viste, di crimini abbastanza ordinari, che invece vengono raccontati in un modo che li rende sensazionali e per questo lascia un po' il gusto di vedere anche da noi un racconto di questo tipo, un racconto true crime, che racconti più che i crimini stessi che possiamo immaginare, grandi pagine di cronaca nera, quello che siamo stati noi e come abbiamo vissuto noi in quel momento. Questo l'ho trovato molto interessante perché sì, insomma, in Europa, anche solo per ragioni geografiche, di confini culturali, siamo molto simili nel racconto della cronaca nera ed è un peccato che da noi ancora non abbia preso piede il racconto, appunto, true crime, un po' più di finzione. C'è Franca Leosini, c'è Chi l'ha visto, che si sono, al di là dell'ironia, davvero anche un po' inseriti in questo filone sempre più narrativo negli anni. Non c'è una serie equivalente a Making a Murderer, della Tiger King o anche Le ragazze di Alcaster, non ancora, su Netflix o su una piattaforma che poi diventi anche a quel punto internazionale. Le storie di Chi l'ha visto restano a Chi l'ha visto, Le ragazze di Alcaster l'abbiamo vista anche noi in Italia. È una storia che racconta un crimine, l'uccisione tremenda di tre adolescenti nella Spagna degli anni 90, la nascita della televisione spazzatura coi crimini del pomeriggio e della prima serata. È una storia spagnola, ma appunto dicevi potrebbe essere una storia italiana a tutti gli effetti. È un'altra serie francese, quindi proprio cugina nostra, che si chiama Grégory ed è sempre su Netflix, prodotta da Netflix Francia. Racconta la sparizione di un bambino, quanti ne abbiamo viste di bambini, di casi di bambini scomparsi, che ha tenuto in scacco una nazione come poteva essere la nostra Denise, e tutti insomma i bambini scomparsi in quegli anni. Poi andiamo sempre in quegli anni in cui c'era anche meno diffusione della notizia virale, non c'era la viralità e quindi si aspettava la puntata al notiziario serale, all'approfondimento di informazione, era quello, diciamo, l'alternativa al racconto binge watching che c'è oggi. E anche quest'altra serie è una serie classica, meno interessante. Ho preferito Le ragazze di Alcaster perché ha quella deriva di racconto di costume televisivo molto, molto ben confezionata, molto ben pensata. Grégory è una classica serie, appunto, di missing child, che però racconta pagine che abbiamo vissuto, e quindi c'è un'immedesimazione inevitabile, c'è un inevitabile, come dire, aspettarsi le stesse cose, però vedendone delle altre che tengono a quel punto, appunto, lì a osservarle. E se qualcuno dicesse che sono dei racconti un po' morbosi, vabbè, non nascondiamoci dietro un dito, perché anche le pagine dei giornali di cronaca nera hanno sempre avuto il loro fascino, quindi non c'è niente da fare. Il racconto della cronaca nera reale è un racconto che ha una tradizione lunghissima. Però, come dicevi tu, il nuovo metodo di raccontare questi casi, e lo chiamiamo a questo punto genere true crime perché è un genere ormai codificato, sconfessa in grande parte tutti i crismi con cui una volta si confezionavano le inchieste per fare presa facile sullo spettatore. Anzi, qui si svelano anche i meccanismi. Esatto, c'è sicuramente della furbizia narrativa, perché c'è il cliffhanger a fine puntata, perché c'è la seconda pista che si prende all'improvviso e che chissà se porterà nella direzione giusta o in quella sbagliata, tutte le cose che ci si aspetta da un racconto comunque di detective story, quindi quello esiste e resiste. Però vengono davvero messi in grande discussione i metodi di analisi, per così dire, di un tempo, di cronaca di un tempo che oggi anzi vengono tacciati di essere stati dannosi in larga parte. C'è qualche serie true crime che ci sconsigli, Mattia? C'è qualcosa che non ti è piaciuto? Please no! No! No! No! Quelle, ecco, ne sono uscite qualche anno dopo Making a Murderer delle serie praticamente fotocopia, penso a Evil Genius su Netflix, che non è una brutta serie, è un caso nel caso anche quello, c'è una protagonista più pazza che mai anche in quel caso, è un po' un effetto fotocopia che non, insomma, non è viste tutte, perché proprio no, e Tiger King è arrivato proprio come un macigno a ricordarcelo. Però ecco, da spettatore sempre si dice il tempo ce n'è, ne abbiamo avuto tanto in questi mesi, però va anche ben utilizzato, come per tutti i generi, laddove c'è una storia davvero interessante da seguire, è bene seguirla, il true crime per il true crime diventa davvero ormai un esercizio quasi di stile e di scrittura a volte. È tutto per questo episodio dedicato alle serie True Crime. Con noi Mattia Carzaniga, giornalista. Con me a realizzare ancora una, poi smetto, Alessandro Schirano e Paolo Corleoni. Tutta la serie è sul sito radio24.it e sulla app di Radio 24, disponibile anche sulle principali piattaforme di streaming.